Il punto di Stefano Folli. Non si capisce perché debba essere giudicato storico un incontro fra due dei maggiori esponenti politici del paese, specie quando non dà alcun risultato concreto e si prosegue nello stallo assoluto che è il vero scandalo di questa faticosa primavera. Il fatto straordinario non è l'incontro di un'ora, quanto la realtà di un sistema paralizzato da anni, in cui i capi dei due principali schieramenti non trovano mai il tempo o la voglia per vedersi e dialogare. Non per fare il governissimo, si intende, e questo superlativo già la dice lunga, ma più semplicemente per mettere sul tavolo qualche riforma, per cambiare almeno la legge elettorale. Niente. Ora Bersani e Berlusconi si incontrano per decidere chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica, ma naturalmente la decisione non c'è e si continua ad aspettare, come nel deserto dei Tartari, mentre il paese affonda.